9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì, è un venerdì in cui si celebra Sant'Ignazio, quindi auguri a Ignazio, venerdì 11 maggio. Come vedete i Doors li sente anche il ministro dell'economia tedesco Schäuble, avete sentito i colleghi del giornale radio, la dichiarazione di questa mattina conferma quello che vi dicevo da settimane, è ufficialmente in agenda l'uscita della Grecia dall'euro nel caso di nuove elezioni. Siamo alle prese con l'ultimo tentativo, che però fallirà, di formare un governo da parte del PASOK, il terzo tentativo questo dopo Syriza e dopo Nea Democratia, e Schäuble, il ministro tedesco, dice sia ben chiaro, l'euro non affonda senza la Grecia, che è come dire ragazzi, se andate a votare e sospendete con la vittoria più che prevedibile dei partiti che sono contrari alla nuova tranche di rigore, si sospendono i colloqui con la Troica, sono già sospesi ufficialmente, e la Grecia si avvia fuori dall'euro. Se questo doveva essere l'esito, devo dire la verità, bisognava esaminarlo nelle prime settimane, magari con una formula concordata avremmo evitato 2 anni e mezzo fa di andare avanti con soluzioni, non soluzioni, più di 300 miliardi costate all'Europa. E forse il punto di fondo è che una moneta senza mercati dei beni e dei servizi unificati, davvero unificati, non è perché manca la politica, vedete, non è perché manca la banca centrale come la Fed, ma senza mercati dei beni e dei servizi e del lavoro unificati, paesi a produttività tanto divergente, a curva di costi tanto divergenti, una moneta unica non la reggono. La Grecia in realtà con l'euro, noi tutti consapevolmente, e se non eravamo consapevoli siamo stupidi, gli abbiamo regalato un 30-40% di capacità di potere d'acquisto pro capite in più rispetto a quello che produce, a quello che esporta. Così è. Adesso incolparne i greci, i politici sì, ma i poveri greci è un po' pazzesco se improvvisamente abbiamo cambiato idea. Così non si va da nessuna parte, e comunque vi beccherete i Doors, temo a lungo, perché nelle prossime settimane, con il voto greco, con le conseguenze dell'avvitamento della crisi bancaria spagnola, le faccende si complicheranno. Gli spread italiani, vedrete, come tutti quelli di mezza Europa, continueranno a salire. Ma non è di questo che ci occupiamo oggi. Lo teniamo sullo sfondo, per così dire. Oggi abbiamo un interrogativo iniziale da cui partire, e poi una seconda parte della trasmissione in cui ci occuperemo, ve l'ho già detto lanciando la trasmissione, dell'agenzia della Carinzia, che dice mentre gli italiani pensano forse un domani di poter, tra chissà quanti anni, tagliare la spesa, tagliare le tasse, migliorare lo Stato, abbattere il debito, noi intanto questa roba qua già ve la proponiamo. Care imprese italiane, mentre il vostro PIL quest'anno va a molto più di meno 2, avete sentito, il primo trimestre è meno 1, se in un trimestre si fa meno 1, la proiezione è di fare parecchio più di meno 2. Per capirci, il reddito pro capite degli italiani in termini reali quest'anno scende di più del 2%, i consumi pro capite scenderanno più del 3%, siamo attualmente a un tasso del 3,2-3,4, e per capirci un meno 3,2-3,4 di consumi reali pro capite in un anno sono una diminuzione di quelli che ci porta indietro a metà degli anni 70, per capirci, poiché la diminuzione negli anni 2008-2009 nella prima parte della crisi dura era la metà, meno 1,7. Siamo comunque, la si prenda, se vi guardiamo gli investimenti rispetto a una media poco soddisfacente 2001-2007, gli investimenti italiani che stavano al 21,3-21,2-21,4% del PIL, quest'anno stiamo andando al 18%, 3 punti in meno di PIL di investimento. Se guardate quelli in macchine e attrezzature industriali, che sono uno dei classici punti di riferimento per capire se si scommette sulla crescita dell'economia, rispetto a un 154 miliardi spesi in investimenti per attrezzature macchinarie nel 2007, noi stiamo andando a 120 miliardi. Se guardate quindi 2 punti di PIL in meno solo per questo. Se guardate le compravendite immobiliari, erano 850.000 nel 2010, sono già scese a 600.000 nel 2011. I primi mesi di quest'anno comprovano un mercato immobiliare che, per effetto dell'IMU, del terrore che ha messo tra gli italiani, è diventato di pura sostituzione, quindi siamo a vendite in numero tra meno 40 e meno 50. I prezzi si aspetta di valutare dopo l'IMU quanto e se inizieranno a cadere, quindi si intaccherà anche il patrimonio degli italiani. Va bene, allora, di fronte a questo, prima domanda: in questi giorni i componenti del governo, Passera in questi 2 giorni che ha parlato di problemi per la tensione sociale, ma lo stesso ministro Fornero, che ha ammesso con riforme del mercato del lavoro e con interventi come quello sulle pensioni di non avere forse ben considerato gli effetti che potevano avere sulla parte dell'Italia che stava peggio, e di non aver considerato che sulla riforma del mercato del lavoro poteva derivarne maggior lavoro nero aggiuntivo, ed è per questo che sta finalmente imbarcando alla Camera e al Parlamento alcuni emendamenti correttivi della sua riforma del lavoro. Ecco, anche il ministro Fornero ha ammesso che qualche cosa si è sbagliato. Credere a questo cambio di impostazione, a questo cambio di tono del governo, bisogna credere a Giarda, non alla sua buona fede, io ci ho sempre creduto, ma al fatto che avverrà davvero quello che ha detto ieri, quando ha detto non c'è alternativa al taglio di spese e al taglio di tasse, davvero non c'è alternativa e bisogna tagliare di molti punti di PIL. Sembrava non lo so, Nicola Porro, sembravano Oscar Giannino, sembrava Michele Boldrin invece che un componente del governo Monti. Io mi augurerei di credere a tutto questo, sarebbe un apprezzabilissimo segno di consapevolezza, come, perdonatemi, sarebbe un bel segno se il capo dello Stato andesse a trovare per esempio l'ingegner Adinolfi, il capo di Ansaldo Nucleare, che è stato sparato alle gambe. Non ho capito perché anche lì le istituzioni non si muovono, perché è alla testa di un'azienda che fa questa roba incredibile che si chiama nucleare, perché si ha paura di capire qual è la matrice, perché non si vuole, bisogna fare come i suicidi, vengo rimproverato di parlare degli imprenditori che si suicidano, non bisogna parlare di chi spara con le pistole perché sembra un terrorista e a tutti gli effetti lo è, e quindi bisogna risparmiarsi il consenso istituzionale a chi fa il suo mestiere di manager e viene sparato per strada. Io credo che sia molto sbagliato quello che sta avvenendo, me ne sono reso conto vedendo lo spazio che i giornali finiscono per riservare sempre più in fondo alla foliazione a quell'episodio, e non mi piace per niente, a dire la verità. Allora, sulla domanda se credere o non credere a questa nuova atmosfera che da una parte vede complicarsi l'agenda europea e dall'altra il governo ammettere dopo mesi che non è più il tono di dire italiani non ci deludete, perché o ci capite e ci applaudite o vuol dire che non ci meritate, vediamo di sottoporre questa questione a nostri due amici. Il primo è Tobias Piller, che è il corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Tobias Piller. E il secondo è Nicola Porro, il vice direttore del giornale. Buongiorno Nicola Porro. Buongiorno. Allora, ci credi Nicola a questa resipiscenza? Cioè, si stanno rendendo conto i signori del governo che il guaio è un po' più grosso della crescita e degli effetti che hanno creato maneggiando con non troppa cura vicende come gli esodati o il terrore che hanno buttato nella pancia italiana dicendo dell'IMU, una rata, 2 rate, 3 rate, non lo sappiamo, lo diremo a dicembre e così via? Oppure è semplicemente il Quirinale che gli tira le orecchie, secondo te? Guarda, io non ci credo, ti dico una cosa un po', se vuoi, eterodossa. Io pensavo, quando il governo Monti ha sostituito quello Berlusconi in fase, diciamo, comatosa, io mi auguravo che il governo Monti potesse fare le banali cose che si dovevano fare. E ti dico la verità, Oscar, in maniera direi piuttosto impopolare, penso che il primo provvedimento del governo Monti, cioè quello del taglio brutale fatto con la riforma delle pensioni, andasse esattamente nel senso che io auspicavo, cioè quello di ridurre la spesa pubblica. Basti pensare che di pensioni spendiamo 250 miliardi di euro su 700 al netto degli interessi pagati sul debito, quindi quello è l'aggregato più forte da tagliare. Quando ho visto che sono intervenuti in maniera, se vuoi, grezza, commettendo degli errori, ma immediata, sulle pensioni, ho detto forse insomma questo governo Monti fa quello che si doveva fare e che il governo Berlusconi, grazie a tutti i veti incrociati e prima di lui gli altri governi, non sono riusciti a fare, posto che comunque sulle pensioni l'abbiamo detto mille volte, comunque abbiamo fatto delle manovre che andavano bene e che comunque andavano nella giusta direzione. Poi però, dopo questa prima mossa, secondo me ben fatta, perché sennò poi sembra che il governo Monti sia tutto sbagliato, che non ne abbia combinata neanche una. Poi insomma io penso che non, di non essere proprio uno di quegli interlocutori che nascono col DNA montiano. Beh, insomma, dopo quella ho capito una cosa in modo inconfutabile, cioè il governo Monti è fatto da persone che non hanno la più pallida idea della realtà dell'Italia. Sono persone che fanno parte di un'elite di questo paese, un'elite che è cresciuta nelle università e nelle grandi burocrazie di Stato, che hanno sempre avuto voglio dire la paga al netto di tutti quanti i contributi, che hanno sempre goduto non di privilegi ma di uno status che ovviamente l'elite del paese si è autoassegnato negli anni, e non hanno, ma non hanno la più pallida idea di quello che sta avvenendo. Tu hai detto giustamente riguardo ai suicidi degli imprenditori e quella incredibile situazione kafkiana in cui ci dovremmo trovare noi giornalisti, di non parlarne per alimentarli, o riguardo al Brigate Rosse, o come si chiamano questi diavoli che hanno sparato e gambizzato un dirigente dell'Ansaldo. Bene, secondo me la distanza tra queste persone e i professori che ci guidano è talmente alta che loro proprio non si rendono conto di quello che sta avvenendo nel paese. Questo non è un giudizio di merito, è un giudizio tecnico. Quando loro ci dicono, quando il governo fa una riforma del lavoro in cui pensa che veramente il tema fondamentale sia l'articolo 18 e su quello, articolo 18 che secondo me è una bestialità, ma comunque su quello sacrifica, anche se qualcosa sta cambiando, la flessibilità in entrata del 90% delle piccole e medie imprese italiane, vuol dire che la professoressa Fornero è vissuta troppo in organizzazione da 5.000, 6.000, 7.000 dipendenti al minimo e non ha idea di come stia funzionando, e va benissimo, va dagli operai dell'Ansaldo, ma non capisce che in Italia gli operai dell'Ansaldo rappresentano come posso dire, un dettaglio di quello che è il nostro paese. Quindi adesso il tema è che si tende sempre a confrontare questo governo con quello precedente, mentre invece la cosa seria da fare oggi è confrontare questo governo con se stesso. Quello che temo che questo governo non capisca è quello che è stato secondo me sintetizzato in maniera non ipocrita da un grandissimo come era Tommaso Padoa Schioppa, e cioè quello che le tasse erano belle. Lui lo ha detto senza ipocrisia sulla prima pagina del Corriere della Sera, e quel tipo di cultura è una cultura devastante, perché diventiamo demagoghi e ipocriti noi che sosteniamo che le tasse non sono belle. Le tasse in un paese in cui il 50% è fatto da spesa pubblica, le tasse vanno ad alimentare qualche cosa che è un disastro. Quindi temo che questo governo, per rispondere alla tua domanda, senza fare confronti, ma ha dimostrato una sua totale incapacità di comprendere il paese reale che sta andando da un'altra parte. Questo non vuol dire, e poi mi taccio per un po', Oscar, questo non vuol dire che gli altri abbiano fatto meglio, possono fare meglio, ma questo non vuol dire neanche che si debba aprire la spesa pubblica. Cioè la ricetta Hollande è un disastro e sarebbe un disastro per l'Italia, quindi la ricetta, voglio dire, di spesa pubblica, aumento delle imposte, delle aliquote marginali superiori, l'aumento degli occupati nella pubblica amministrazione come ha promesso Hollande, quella sarebbe un disastro, ma la politica adottata oggi da Monti è una politica fatta sui libri, e quindi temo che quella politica non ci porterà, non cambierà. Ora, naturalmente, io per completezza a chi ascolta e per rispetto dell'opinione di tutti, devo riconoscere, oggi c'è un unico quotidiano tra tutti, tra le varie, i vari temi su cui aprono, è ovvio che il Sole apra sulle modifiche accettate proprio per attenuare il rigore della stretta all'entrata, la riforma del mercato del lavoro, ma gli altri vanno da Obama che dice la crisi europea può contagiarci come la stampa, anche il Corriere della Sera sceglie novità sul lavoro e partite via, ma ce n'è uno di quotidiano, La Repubblica, che fa un titolo che sembra da campagna elettorale, perché dice governo un miliardo per i poveri. E oggi il Consiglio dei Ministri vara il piano e il quotidiano guidato da Ezio Mauro, un miliardo di euro contro la povertà, piano del governo su anziani e bambini. Vedremo, io per carità sono il primo che spera. Qui le modifiche al mercato del lavoro, come le presenta Repubblica, non sono modifiche intese a rendere, ad attenuare la rigidità del giro di vite che il ministro aveva imposto in entrata sul mercato del lavoro, con la, abbracciando l'idea ideologica che per lottare la precarietà bisognava praticamente abbassare la domanda di lavoro delle imprese, perché questa sarebbe la conseguenza, ha riconosciuto in questi due giorni che l'effetto di quella impostazione molto ideologica sarebbe stata la diminuzione della domanda di lavoro delle imprese, cioè più lavoro in nero. Però Repubblica presenta questa novità come salario minimo e sussidio più tutele per i cocopro come se fosse la svolta sociale. Allora, questo è il classico esempio, secondo me. Non mi sentite tanto frequentemente polemizzare con giornali che la pensano diversamente da me, perché io fa parte del mestiere, però oggi la cosa è veramente macro evidente, no? Perché c'è, rispetto a tutti gli altri giornali di destra come di sinistra eccetera, c'è questo enorme titolone: governo un miliardo per i poveri, che sembra che sia, abbiano finalmente letto il canto di Natale di Charles Dickens, e quindi abbandonino la linea di Ebenezer Scrooge al governo. Ma vedere per credere. Io certo mi augurerei anche che quello che ha detto ieri Giarda intervenendo a un'industria a Roma, cioè che prestissimo ci sono i due decreti per lo sblocco delle compensazioni. Ieri, sentendo Grilli, che non è facile a parlare in pubblico e non è facile a usare il tono che aveva ieri, un tono deciso, sembrerebbe quasi che il governo avesse accettato in maniera piena l'idea delle compensazioni fiscali per tutti i crediti fiscali che non paga, e sapete che sono più di 31 miliardi. Vedere per credere anche lì. Certo, sono tutti segni che ci devono fare riflettere, e uno di questi elementi di riflessione è quello che voglio chiedere a Tobias Pillar. Noi ci siamo trovati questa settimana a incrociare le lame, per così dire, su Panorama, perché io avevo fatto un po' di critiche alla leadership di Angela Merkel in Europa, perché era un facile vaticinio immaginare che domenica alle elezioni in Francia, come in Grecia, sarebbe successo un putiferio. Domenica 6 maggio è successo, e giustamente Tobias Pillar vi ha replicato dicendo: guardate che tutto questo ai tedeschi, comunque votino alle elezioni, ha solo un suono, fa passare la voglia di fare qualunque patto con chiunque di voi in Europa, e credo che in realtà abbia ragione su questo. Allora chiedo a Tobias Pillar, da una parte, se crede anche lui a questo cambio di tono del governo, un cambio di marcia verso riforme, diciamo così, più incisive nel taglio di spesa e di tasse, e nell'andare avanti in una riforma che il governo Monti sembrava avere un po' smarrito dopo gli errori sulla riforma del mercato del lavoro, dopo le battute che gli erano uscite fuori, si era un po' incartato. Ma dall'altra, qual è la sua opinione di come si mette l'agenda europea? Al 23 maggio Monti ha un ruolo da giocare con Hollande a fianco alla Merkel, come i giornali più vicini al governo lasciano intendere, secondo Tobias Pillar, oppure in realtà ci stiamo avviando a un giro di vite? Le parole di Schäuble rilanciate stamattina dalle agenzie sono di quelle che un po' preoccupano, insomma, per così dire. Come la pensa Pillar su questi due temi? Lato l'Europa, certamente il punto è che non possiamo fare un po' di Grecia in tutti questi paesi europei, e io penso c'è la tentazione dappertutto, anche in Germania, di fare un po' di spesa e di pagare dopo, e di dire assumiamo un po' di persone in più, facciamo un po' di consumo in più, e questo così ci salverà, farà crescita. Ma osservo che la Francia già oggi ha una spesa statale di 55% di tutto il PIL, di tutta la ricchezza nazionale del paese. La Germania adesso si è fermato a meno di 46%, diciamo 45 e qualcosa così, 10 punti percentuali in meno. E questo per me è la ragione perché la Germania sta andando bene. Perché allora spendere di più adesso e non fare queste riforme che dovrebbero veramente portare l'Europa verso una più grande competitività di fronte al resto del mondo? Altrimenti finiremo tutti come la Grecia, tutta l'Unione Europea. Se questa è l'analisi mia di base, certamente non c'è spazio per pagare altri programmi come se li augura Hollande, ma se ci vuole l'applicazione di quello che hanno scritto Draghi e Trichet a Berlusconi nella loro lettera dell'estate scorsa, dove hanno chiesto delle riforme molto più dure di quanto ha fatto Monti negli ultimi mesi. Solo l'Italia certamente non era pronto per una cura di cavallo così. Così Monti da un lato voleva tenersi il consenso, dall'altro lato non è tanto facile fare in una mossa tutto, anche senza fare neanche uno sbaglio. Per qualcuno che non ha fatto la politica italiana quotidiana ogni giorno, in questo senso il governo Monti, a mio avviso, o fa un nuovo salto in avanti o è destinato a avere sempre meno spazio di manovra e poi di perire. Vedete, da diversi punti di vista, ma i dubbi e i giudizi taglienti di Nicola Porro e la conclusione, argomentata diversamente, di Tobias Spiller alla fine, convergono su un elemento che anche a me ha stupito molto del governo Monti. Diceva Tobias Spiller adesso, a un certo punto è risultato evidente molto presto all'inizio dell'agenda del governo Monti che il governo Monti voleva sì fare le riforme, perché era consapevole del fatto che l'Italia era diventata il detonatore dell'euro, però voleva anche molto il consenso. Questa cosa secondo me ha fregato un pochino la cifra di operatività del governo, e questo quello che gli ha impedito di fare davvero quello che continuano a far dire solo a Giarda per tenere buoni noi poveri liberisti, cioè che bisogna davvero tagliare 90-100 miliardi in 3 anni di spesa pubblica, come fece la Germania negli anni 2002-2007 per abbassare le tasse, esattamente. Continuano solo a dirlo, ma si guardano bene dal farlo. Credevano di avere l'applauso di tutti sul giro di vita all'ingresso al mercato del lavoro e di ribaltare l'impostazione che hanno portato in Parlamento rispetto a quello che avevano firmato sull'articolo 18, che condivido quello che ha detto Nicola, non era certo il problema poi fondamentale. Di fronte alla reazione di un paese la cui economia va malissimo, va peggio del 2008-2009, perché questa volta è il mercato interno e domestico che viene aggredito dalla pretesa fiscale aggiuntiva, dal fatto che le banche hanno i cordoni stretti e dal fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, a cominciare dallo Stato che i suoi 100 miliardi non li onora. Ecco, di fronte a questo è venuto un blocco, e ora la mia opinione è che il casino europeo, che si avviterà molto, ci pone di fronte a un bel pasticcio, perché i partiti dopo le amministrative devono fare loro e pensare al futuro, è inutile pensare di dirgli state buoni e state zitti. E forse il governo Monti ha perso, se non cambia radicalmente impostazione, lo dico nella speranza che l'Italia possa contare su questa possibilità di ravvedimento, cambino tono e cambino agenda. Altrimenti succede che cosa? Dopo la pubblicità lo vedremo. Intanto saluto il mio amico Tobias Spiller e il mio carissimo amico Nicola Porro, e li ringrazio. Pubblicità. Ed eccoci tornati, mentre si arroventa l'Europa, mentre ci si interroga se dare retta al cambio di tono di alcuni ministri del governo Monti, che sembrano ammettere che avevano sbagliato marcia, avevano sbagliato tono, per così dire. Vi leggo qualcuna rapidissimamente per arrivare poi a una seconda domanda, se intanto chi può se ne deve andare da questo paese, perché tra le tantissime lettere che ci arrivano a disperati mai @radio24.it ne scelgo solo due rapide. La prima può sembrare una sciocchezza, ma attenti, e ce la scrive un amico che si firma ovviamente Matteo, che ha uno stabilimento balneare a Cesenatico, e il problema è questo: durante gli scorsi 5 anni ha accumulato 4 verbali per scontrini non emessi, e ci racconta come è avvenuta questa cosa. È avvenuta questa cosa perché il cliente era andato al bar, aveva preso una birra, aveva pagato, gli era consegnato il resto, lo scontrino fiscale, poi era seduto al tavolo, passa la guardia di finanza, gli chiede lo scontrino, il cliente ci scrive, dice: guardi, l'ho buttato. Allora naturalmente la guardia di finanza va a fare il controllo nel giornale di fondo registratore di cassa, trova lo scontrino, però la risposta del finanziere è sempre la seguente: ma secondo noi questo scontrino è antecedente, quindi noi emettiamo un verbale per mancato rilascio della ricevuta fiscale, se vuole però può fare ricorso entro 60 giorni dall'arrivo della sanzione. Allora la lettera procede e racconta che la multa di 516 euro se pagata in forma breve si riduce a 129 euro, e loro dicono: vabbè, chi ce lo fa fare di fare un ricorso, saremmo stupidi perché costerebbe molto di più della multa, anche se in realtà noi gli scontrini li emettiamo. Ora arriva una lettera dell'Agenzia delle Entrate con la consegna a mano, e la consegna a un messo speciale dell'agenzia, uno che arriva un po' impaurito, sto leggendo testualmente, non vede l'ora di andare via e sembra un po' temere addirittura per la sua incolumità. Ci dice che per lui è una scocciatura consegnare queste lettere con i tempi che corrono, un lavoro che è diventato molto scomodo. Noi apriamo la lettera preoccupati e facciamo bene, perché ci viene sospesa l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti per 3 giorni, il 15, il 16 e il 17 giugno, cioè venerdì, sabato e domenica. Verrà la guardia di finanza, mi metterà i sigilli alle serrande e così io sarò messo alla gogna pubblica, avrò un mancato incasso in un fine settimana a giugno quando la stagione decolla e naturalmente io dovrò pagare i dipendenti, sarà un disagio per tutti i clienti e soprattutto a quel punto io passerò di fronte a tutta la comunità come un incallito evasore con i fermi sulle serrande del mio esercizio. Come posso pretendere io di essere creduto nel dire che le cose sono andate così quando tutti sono pronti a scommettere che invece ha ragione il finanziere che dice ti faccio comunque il verbale e poi si arriva dritti dritti al fermo amministrativo delle attività? Ecco, io vi leggo questa lettera perché per capire che viviamo in un mondo nel quale, con tutto il rispetto, e lo ripeto sempre per Befera, che è alla testa della macchina amministrativa tributaria delle riscossioni italiane, come per chiunque di loro che ci lavori, il problema è politico, è la politica che deve capire che bisogna rapidamente cambiare marcia nell'ordinamento tributario italiano. La seconda lettera ve la leggo un po' più avanti perché è drammatica e non voglio sembrare di confondere il tema. Perché ho fatto questa nuova accenno alle lettere per le materie fiscali? Perché abbiamo con noi una persona che è consulente in Italia di ABA Invest. ABA Invest invest in Austria e questa persona di mestiere che cosa fa? Spiega alle aziende italiane in termini comparati le agevolazioni, le facilitazioni che ci sono per piuttosto che continuare a lottare in Italia di fronte a un fisco così elevato, un'amministrazione così invasiva, trasporti, logistica, tutte le voci del gap produttivo italiano in termini comparati, spiegargli come funziona in Carinzia e in Austria. E con noi Maurizio Bossi Fedrigotti, e io per questo lo ringrazio e gli chiedo due cose essenzialmente. La prima è di spiegare se l'interesse è in forte crescita in questo periodo, oppure se si era frenato con la nascita del governo Monti, oppure se sia del tutto in realtà non collegato a questi aspetti congiunturali della linea politica italiana, ma sia in crescita semplicemente da anni, perché tanto la pressione fiscale aumenta sempre e le possibilità di uscire dal tunnel italiano sono sempre più complicate. Secondo, come si difende di fronte alle ricorrenti accuse per le quali parlare di questi argomenti, organizzare attività di consulenza di impresa comparata per dire fatevi bene i vostri conti, imprenditori, sia una specie di tradimento dell'Italia, perché io per primo vengo accusato di farlo tutte le volte che parlo di ordinamenti fiscali comparati e ricordo che nel mondo aperto in cui viviamo credere di rinchiudersi e di evitare la concorrenza aperta tra ordinamenti, ciascuno al più alto livello di efficienza con il più basso livello di pressione fiscale sulle imprese come sui contribuenti, pressione fisica per il più alto livello di servizi pubblici offerti, significa semplicemente non sapere in che mondo viviamo. Ecco, su questi due argomenti: primo, come vanno le cose e se è in crescita o Monti l'aveva fermato, per così dire; secondo, come difendersi dall'accusa di non essere buoni italiani per farlo. Qual è la risposta che ci dà Maurizio Bossi Fedrigotti? Buongiorno a lei. Buongiorno Maurizio Fedrigotti, buongiorno. Dunque, prima di tutto devo dire che noi come ABA, Austrian Business Agency, vogliamo offrire un servizio completo alle aziende estere, in particolare quelle italiane, che desiderano affrontare mercati stranieri da una posizione più vantaggiosa rispetto all'Italia. Quindi noi non andiamo a propagare la cosiddetta delocalizzazione delle aziende, non andiamo a dirgli di chiudere in Italia e di venire in Austria, ma proponiamo una valida alternativa soprattutto alla media azienda italiana che appunto ha necessità di espandersi e di affrontare nuovi mercati all'estero. E in questo quadro di attività la sensibilità che lei ha rilevato è in crescita negli ultimi anni? Ci sono state delle stasi dovute al fatto che c'era una ripresa di fiducia poi delusa in Italia? No, cioè come si legge la curva dell'attenzione verso la vostra attività? Direi che a partire dalla seconda metà dell'anno scorso l'interesse da parte di aziende italiane per l'Austria è cresciuto notevolmente, appunto in proporzione inversamente proporzionale alla diciamo così, alla quella che è lo sviluppo interno in Italia, cioè l'insoddisfazione per quelle che sono le condizioni generali in cui le aziende devono operare in Italia. L'attenzione che l'ordinamento locale austriaco offre a investimenti diretti esteri aggiuntivi di aver creato delle finestre, delle modalità per aprire le nuove attività, anche delle pressioni fiscali diversificate rispetto alle attività preesistenti, siano esse controllate da austriaci oppure no, oppure è semplicemente un ordinamento che funziona meglio in generale ed è uguale per tutti e che non offre incentivi a chi offre nuovi investimenti? Questa è la seconda versione, cioè in Austria non negli ultimi, diciamo, 5, 6 o anche 10 anni le condizioni generali, le condizioni quadro non sono cambiate per investitori esteri, per cui c'è un sistema fiscale stabile che è rimasto, che è invariato negli ultimi anni e che comunque è soprattutto per le aziende è molto più vantaggioso rispetto all'Italia. In Austria un'azienda, una società di capitale, che sia SRL o società per azioni, paga sicuramente il 25% sugli utili della società, e queste sono le condizioni quadro che sono appunto rimaste invariate negli ultimi anni, quindi l'Austria non ha, diciamo, cambiato o modificato in relazione a quelle che sono anche il maggiore interesse degli investitori. Allora, fatevi un conto, perché nel caso italiano il problema della pressione fiscale sul reddito lordo d'impresa non si fa con le aliquote legali IRES. Il tax rate reale, una volta che voi sommiate a seconda di come possiate andare in credito o meno, cioè di quanto sia esteso il perimetro della vostra finanziarizzazione all'interno dell'impresa, ma una volta che voi sommiate l'IRES, questa meravigliosa imposta che esiste solo in Italia, l'IRAP, quella che si paga anche quando si è in perdita, e tutto gli altri balzelli rispetto a quel 25% su cui l'Austria è ferma, quanto più è piccola la vostra impresa, e cioè capovolgendo l'articolo 53 della Costituzione, tanto più voi vi innalzerete verso il 60, il 70 e talora anche l'80 del reddito lordo d'impresa, e vi troverete, come puntualmente avviene in questi crescenti anni, se per esempio fatturate nei confronti di soggetti pubblici, a dover pagare tutto questo su soldi che le stesse amministrazioni pubbliche, che vi chiedono i soldi sul fatturato che non avete incassato, non vi hanno pagato loro per prime. Ecco, questa è la condizione dell'Italia. Non prendiamocela quindi con i Maurizio Bossi Fedrigotti e con chi che è un trentino di madre austriaca, che giustamente segnalano alle imprese italiane che di meglio c'è a pochi chilometri dalla frontiera. Prendiamocela con chi in Italia ci dice che non ci sono alternative, perché mente. Fate fare a Giarda e a Bondi non ciò che dovete fargli dire, perché a dirlo i molto più modesti Giannino, cioè i 6 punti di PIL da tagliare come senza effetti recessivi per fare 6 punti di pressione fiscale subito in meno, questo è 30 anni che noi sappiamo come si fa. Dovete farlo, altrimenti siete come i peggiori partitanti che vi hanno preceduto. Questo è il mio giudizio, purtroppo con grande rammarico, anche sul governo attuale. E ora le informazioni sulla circolazione stradale. E mentre tornano i Doors, che continuano ad accompagnarci, una telefonata intanto. Andrea da Modena, prego Andrea. Buongiorno dottor Giannino. Buongiorno. Io volevo dire una cosa, cioè, secondo me il governo Monti è ancora fermo alla manovra lacrime e sangue, cioè io sulla crescita non ho visto ancora niente, insomma la capacità delle famiglie di spesa è diminuita. Io vedo solo delle manovre che hanno diminuito la capacità di spesa della gente, le accise sulla benzina, delle cose che io veramente stento a crederci ancora. Andrea, vedi, il rischio è che a dire queste cose, che secondo me sono elementari constatazioni di verità, si passi per nostalgici di Berlusconi. Tu non te lo devo chiedere né devi dirlo. Io ripeterò sempre: non lo sono, avete capito? Non lo sono, è chiusa quella roba e per tanti anni ci ha deluso. È chiarissimo, non mi interessa come la pensate politicamente, però le constatazioni di fatto sono che siamo l'unico paese tra gli eurodeboli a fare manovre di rientro, che le fanno per l'80% solo di tasse aggiuntive. l'esecutivo, che questa è un'impostazione che per due terzi si deve al governo precedente, del 3-9 precedenti, ma che il governo Monti ha con Stato e raffermato, che arrivo a dire che il problema non è neanche politico, ma che è la ragioneria generale dello Stato che dice sì o no. Avete visto, anzi non so quanti di voi ci abbiano fatto caso, la nomina del commissario aggiuntivo Enrico Bondi, un esterno, per così dire aggiuntivo, un tecnico chiamato dai tecnici, non è passata per giorni in Gazzetta Ufficiale, perché la ragioneria generale pretendeva di dovervi stare preventivamente ogni cosa che uscisse dalla bocca e dalla penna di Bondi. Quindi, come vedete, le mie non sono pensieri di un matto che se le inventa queste cose, avendoci sbattuto più volte, portando proposte ai ministri in carica concreti. La ragioneria pretendeva di essere lei anche la guardiana di Enrico Bondi, che in teoria è stato chiamato proprio perché la ragioneria ha detto per 20 anni che non c'è alternativa a le spese non si toccano e le tasse si aumentano. Non vorrei che il ragioniere generale e tutti i capi sezione si adontassero con me, che credendo che io manco loro di rispetto. Non è questione di mancare di loro di rispetto personalmente, è questione di dare un giudizio tecnico, operativo e politico, perché loro la responsabilità politica non ce l'hanno e non possono bollinare e dire sì e no. Questo è solo perché una cattiva politica di tutti i colori, di destra, di sinistra e tecnica, per 20 anni glielo ha concesso, dicendo i politici non sono all'altezza, mettiamo un vertice amministrativo. Un vertice amministrativo è uno strumento operativo, non ha l'autonomia della Banca d'Italia, non risponde di quello che fa. Quindi a me questa impostazione per la quale da 20 anni diciamo più spesa e più tasse perché non c'è alternativa e chi critica non è rigoroso, questa è la tomba dell'Italia, la tomba. Vi leggo questa letterina, quanto c'ho? 2 minuti scarsi, va bene, prima della chiusura. Allora scegliamo questa, un imprenditore della provincia di Milano ci ringrazia per... È l'ennesimo imprenditore di un'azienda in crisi che ormai da più di 2 anni tenta di far quadrare i conti e poter portare avanti l'azienda di famiglia. Dopo quasi 45 anni di attività, però, devo deporre le armi. Proprio ieri abbiamo tirato le somme e non tornano ancora. Le giri, le rigiri, ma alla fine non tornano mai e non sai più come farla tornare. Ti impegni i beni aziendali, ci metti la faccia con banca e fornitore, ma alla fine comunque non ce la fai e non risali su. I fornitori, che sono imprenditori a loro volta, per un po' ti seguono perché ti capiscono, ma anche loro poi, e tu devi capire loro, devono far tornare i conti, pagare dipendenti e debiti, siamo tutti in una spirale di mancati pagamenti. Le banche poi di certo sono le prime che non ti aiutano e anche loro hanno delle ragioni, ci mancherebbe. Se solo vedono un segno negativo in fondo al bilancio iniziano a alzarti i tassi e chiedere di rientrare, se poi gli chiedi la concessione di un finanziamento ti chiedono garanzie su garanzie e poi non ti danno nulla e tu devi capirle e dopo essermi lamentato con la banca mi sento rispondere, ma lei cosa crede? Noi comunque dobbiamo incassare interessi e portare comunque a casa i soldi prestati senza nessun rischio di nessun genere e voi ormai siete solo un rischio col bilancio in negativo. Procede molto a lungo la descrizione. Poi lo Stato ci mette la sua parte con l'IMU che ci obbliga a pagare il 50% in più rispetto all'anno scorso, con l'IRAP che comunque paghi anche se l'azienda è in crisi e perde. Siamo forse l'unico Stato, lo so, siamo proprio l'unico Stato, caro amico, che fa questo, con l'Agenzia delle Entrate, con gli studi di settore. E così è per noi, e l'ora maledetta. Non ce la facciamo più e quindi dobbiamo gettare la spugna. 30 famiglie a cui non potrò più dare un reddito e quindi saranno in crisi anche loro. Questa è la fine per me, della mia azienda, e non per me personalmente ancora, ma della mia azienda e della possibilità di dare un pane alle loro famiglie. Sì, una storia pluridecennale che si chiude perché non ho saputo capire che questo paese doveva mettermi in condizione di creare alternative all'Italia stessa, subito fuori dall'Italia. La conclusione del nostro amico di Milano è la conclusione purtroppo amara della giornata di oggi. Appuntamento a lunedì, ma domani sabato pomeriggio alle 19 noi registriamo la Fiera del Libro, una puntata speciale, quindi a Torino alle 19 alla Fiera del Libro domani pomeriggio. Radio 24, la passione si sente.